Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Nuovo appuntamento con il programma Dal mondo della scuola, ancora ben trovati da Mirko Cavallin in studio, da Eddie Daici in regia. Abbiamo il piacere di avere con noi questa settimana, e lo annunciamo già anche la prossima settimana, un ospite già docente di pedagogia generale all'Università di Padova, il professor Ermenegildo Guidolin. Benvenuto. Grazie. Grazie professore. E buongiorno agli ascoltatori. Grazie. Allora, approfittiamo della sua disponibilità, della sua competenza per cominciare ad approfondire. Certo, ci vorrebbero corsi universitari, corsi di laurea, insomma, per parlarne. Lei ne ha parlato per tanti anni, però ci proviamo in questi pochi minuti a disposizione. Spesso nel nostro percorso radiofonico viene fuori il tema degli adulti, della formazione degli adulti, della formazione permanente. Insomma, sono concetti che piano piano cominciano ad emergere anche nel dibattito all'interno delle nostre comunità. Quindi vorremmo con lei, insomma, cercare almeno di dare qualche flash. Partirei, insomma, da una definizione, se è possibile. Insomma, le definizioni sono sempre limitanti. Adulto, due punti, aperte virgolette. Ecco, risponderei con una definizione di un grande studioso, il primo che ha affrontato la psicologia dell'intero corso vitale, ed è Erik Erikson, che dice: l'adulto è colui che ha cura delle nuove generazioni. Ecco, in questa breve definizione c'è davvero l'essenziale. Si è adulti nella misura in cui ci si pone in relazione con l'altro, nel caso specifico con il minore, con i figli, con gli studenti, con gli allievi, e si ha la consapevolezza che la nostra presenza è decisiva per avviare appunto il loro sviluppo personale. Adulto non è affatto qualcosa di compiuto, di definitivo, è un essere in divenire, e questo vale per tutte le età della vita. La migliore definizione, tra l'altro, che possiamo dare della vita, per collocarlo con l'adultità, è quella di una filosofa spagnola, Maria Zambrano, che scrive: la vita è il luogo e il tempo in cui continuare a nascere portando a compimento la nascita. Continuare a nascere. Ecco il senso del divenire umano. E questa nascita che si compie e che compiamo ogni giorno, la compie il bambino, la compie il fanciullo, l'adolescente, il giovane, l'adulto, l'anziano. Ecco, l'intero arco della vita è caratterizzato da questo divenire. Ed è necessaria questa premessa teorica proprio per capire a fondo come l'adulto non è un mito, non è qualcosa che si consegue una volta per tutte. È una possibilità e coincide con la maturità del proprio essere. Coincide con la consapevolezza che abbiamo del senso dell'esistenza. Perché una cosa è esistere e una cosa è vivere. Esistere, siamo qui, esistiamo. Vivere è assumere il valore della vita, il valore dell'esistenza, acquisire il senso che ogni giorno ha nel declinare la nostra umanità. Per cui la vita è proprio questo processo di umanizzazione continua e questa possibilità mai interrotta. Ed è questo appunto il compito dell'adulto, la grande narrazione che deve fare alle nuove generazioni: dare il senso della vita, del suo divenire e del suo valore, sempre da scoprire, mai definitivamente acquisito. È un cambiamento di prospettiva rispetto a quello che si pensava qualche decennio fa. Insomma, anche nella mia formazione, sono un quarantenne, però ho dentro magari degli schemi un po' vecchi. Cercherei di capire quali sono gli aspetti positivi di questo nuovo modo di vedere, le opportunità e anche gli aspetti negativi. Cioè, penso ad esempio al fatto che uno non arriva mai e non c'è mai, e anche la caduta del senso di autorità. Le do questi spunti, insomma. Ecco, Partiamo pure proprio da questo accenno molto prezioso che lei ha fatto dell'autorità. Siamo stati tutti spettatori di una decadenza dell'autorità, qui da intendere come autorevolezza, come preziosa presenza di qualcosa che garantisce lo sviluppo, che promuove quel processo di umanizzazione di cui abbiamo detto prima. In realtà noi non siamo mai definitivamente noi stessi. Cioè dare questo senso dinamico al concetto di adulto vuol dire essere consapevoli davvero di un qualcosa che dobbiamo sempre acquisire, sempre perfezionare. Ecco, il senso di un perfezionamento continuo. Insomma, siamo sempre degli incompiuti, che non vuol dire degli immaturi, dei minus habens. No, è semplicemente la consapevolezza realistica del nostro limite. Ecco, il senso del limite coincide con il senso della realtà. E avere il senso del limite vuol dire poi assumere proprio quegli atteggiamenti che solo la maturità permette. Atteggiamento di rispetto, di riconoscimento dell'altro, di valorizzazione dell'altro, di capacità di riconoscenza. Ecco, quante volte manchiamo di riconoscenza perché non siamo consapevoli di quanto è stato decisivo quello che ci è stato dato. Tanto che Shakespeare, vero, in un suo sonetto sintetizza molto bene questo concetto quando dice: quanto è breve il tempo per esprimere gratitudine. Ecco, l'ingratitudine è manifestazione di immaturità. Vuol dire non essere consapevoli di ciò che abbiamo ricevuto, del dono che abbiamo ricevuto, compresa la vita. Ora, il senso del dono appartiene proprio alla maturità piena. Maturità piena che coincide poi con un atteggiamento positivo nei confronti della realtà. Vuol dire la capacità di essere buoni, non nel senso banale, no, buonista, che spesso si adopera. Se pensiamo che Beethoven, in uno dei suoi quaderni, dice: la bontà è l'espressione più alta della maturità umana. Aggiunge anche: è l'espressione più alta dell'intelligenza umana, perché la bontà esprime sempre il senso che abbiamo di noi stessi e quindi del nostro limite, del nostro essere donati e quindi del nostro compito di donare. E da qui nasce l'educazione. L'educazione è questo dono perché l'altro cresca, dono perché l'altro sia. È l'avvio, è la creazione di quell'insieme di opportunità che permette ad ogni soggetto, bambino, fanciullo, adolescente, giovane, di attingere, cioè di toccare con mano la misura della propria umanità. È l'umanità. Dovremmo essere tutti cultori dell'umano. Questo è il compito dell'adulto ed è il compito dell'educazione. Grazie professore, breve pausa e poi torniamo insieme con questa puntata particolare dal mondo della scuola. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto. Ti scatterò una foto. Ricorderò e comunque, e so che non vorrai. Ti chiamerò perché tanto non risponderai. Come fa ridere adesso pensarti come un gioco, e capendo che ti ho perso ti scatto un'altra foto. Perché piccola potresti andartene dalle mie mani, ed i giorni da prima lontani saranno anni, e ti scorderai di me. Quando piove profili e le case ricordano te, e sarà bellissimo. perché gioia e dolore hanno stesso sapore con te. Io vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse e tutto ciò che hai di me di colpo non tornasse. E voglio amore, tutte le attenzioni che sai dare, e voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire. E riconobbi il tuo sguardo in quello di un passante, ma pur avendoti qui ti sentirei distante. Cosa può significare sentirsi piccolo quando sei il più grande sogno, il più grande incubo? Siamo figli di mondi diversi, una sola memoria che cancella e disegna distratta la stessa storia. E ti scorderai di me quando piove, profili e le case ricordano te. Sarà bellissimo perché gioia e dolore hanno lo stesso sapore con te. Io vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse e tutto ciò che hai di me di colpo non tornasse. E voglio amore, tutte le attenzioni che sai dare, e voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire. Non basta più il ricordo, ora voglio il tuo ritorno. Na na na na, na na. Gioia e dolore, lo stesso sapore con te. Io vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse e tutto ciò che hai di me di colpo non tornasse. E voglio amore, tutte le attenzioni che sai dare, e voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Riprendiamo il discorso con il professor Ermenegildo Guidolin, già docente di pedagogia generale all'Università di Padova. Ripartiamo, professore, proprio dall'educazione. Questo concetto di formazione permanente evidentemente cozza ancora con le generazioni dai 50, ai 60, ai 70 anni che vivono appunto della cultura precedente, per cui loro, una volta diventati adulti, sposati, eccetera, trovato un posto di lavoro, si sono sempre, non per colpa, ma perché certo, la cultura era questa, considerati arrivati e stop. Stiamo vivendo in questa fase in cui invece i giovani, anche i bambini, insomma, come si dice, ci fanno le scarpe sotto molti aspetti. Sì, è proprio così. E credo però che ormai molta acqua sia passata sotto i ponti, e quindi anche che l'adulto contemporaneo, oltre che ad avvertire la propria fragilità, la propria debolezza, attinge anche embrionalmente il senso di un qualcosa che gli manca. Questo può riguardare l'adulto, poi via via l'anziano nelle sue varie fasi. E in ogni caso, qui c'è un compito anche dei giovani, non c'è solo un compito degli adulti. Anche il compito dei giovani è quello di imparare, e chissà che ci sia qualcuno che insegna loro, imparare, dicevo, a guardare con simpatia, oltre che con rispetto, proprio il saper guardare per il valore umano che ha avuto un'esperienza, anche chi in qualche modo si contrappone a noi in nome di un'autorità che non ha, perché è legata soltanto anagraficamente. Diciamo per inciso che l'adultità non riguarda l'anagrafe, non riguarda il numero degli anni, ma l'adultità riguarda appunto questo processo di maturazione continua, quell'avvertire costantemente la propria incompiutezza e quindi nel renderci capaci di comprendere anche le nuove generazioni. Però anche le nuove generazioni hanno un compito ed è quello di guardare sempre con simpatia l'umano che si esprime attraverso la figura dei genitori, dei nonni, che pur avendo raggiunto una certa età sono sempre i portatori di una tradizione, cioè di un bagaglio sia di conoscenze e soprattutto di valori che è molto prezioso anche per le nuove generazioni. Non si cresce soltanto con lo sguardo rivolto in avanti. Questo è un pregiudizio che noi chiamiamo illuministico, credere che ciò che è davanti a noi sia il meglio rispetto al passato. La maturità invece anche del giovane la esprime nel momento in cui avverte che c'è un legame col passato, che ci sono delle radici, radici tra l'altro che lo hanno alimentato. Egli è quello che è oggi, anche con le nuove possibilità tecnologiche, perché c'è stato un passato che ha costruito questo contesto, che ha costruito questi mezzi, queste nuove possibilità. Quindi direi rispetto reciproco non tanto in senso moralistico, ma proprio nella consapevolezza che al di fuori del riconoscimento dell'altro, giovane o adulto o vecchio che sia, non c'è l'umano. Ecco, non c'è l'umano. Non c'è la bontà, non c'è la saggezza, tantomeno c'è la santità. Se noi caratterizziamo con questa parola non qualcosa di vago, ma invece un'esperienza che dovrebbe essere ordinaria, dell'esperienza del credente e anche del non credente nella misura in cui anch'egli rispetta la fede dell'altro, le credenze dell'altro, l'entusiasmo dell'altro. È un cammino insomma incessante, è una scoperta reciproca che le generazioni devono fare di se stesse. Non c'è qualcosa che è passato e qualcosa che ci attende. C'è un passato, c'è un presente, c'è un futuro e la maturità consiste nell'armonizzarli, nel pervenire sempre, e ripeto questa parola, alla consapevolezza che insomma vivere è impegnativo, non è solo esistere per tornare alla distinzione di prima, vivere è consapevolezza, è fatica, è intenzionalità, è capacità di guardare oltre noi stessi, quindi l'altro, ma anche sempre nel riconoscimento del proprio limite, della propria possibilità di sbagliare, della propria inadeguatezza. Ecco, l'umano è un compito, non è qualcosa di mai acquisito, mai acquisito. Ecco, allora, prima di continuare con altri concetti che stiamo cercando di snocciolare, breve pausa e torniamo insieme subito. Dal mondo della scuola. Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola, Mirko Cavallini studio in regia di Daici, in studio con me il professore Ermenegildo Guidolin, già docente di pedagogia generale all'Università di Padova. Siamo partiti dal tema dell'adulto, chi è l'adulto, il concetto della formazione permanente. Cito un episodio che è cronaca personale, ma insomma può darci uno spunto interessante. Un supermercato qualsiasi, famigliola con madre e due bambini piccoli, uno di questi bambini fa esattamente quello che vuole all'interno delle corsie del supermercato senza che la madre o il padre dicano assolutamente nulla. Allora, è chiaro che non è colpa del bambino il suo cattivo comportamento, ma mi domando allora, questi adulti, questi genitori, generalizzando un po', sì, che non si riconoscono questo ruolo anche di dire no, queste cose non si fanno, oppure è anche la libertà, questo mito della libertà anche illuministico che dicevamo prima, insomma, che è ancora dentro i figli. Dato che lei ha in questo momento richiamato il ruolo dei genitori, no? Raccontando questo simpatico episodio che del resto di cui siamo spettatori vero spesso nei vari ambienti, ecco, dobbiamo innanzitutto precisare che non si intende colpevolizzare nessuno. Certamente. Come genitori siamo in qualche modo obbligati a sbagliare. C'è un famoso Bethlein, un famoso psicanalista, che ha scritto addirittura un libro, Genitori quasi perfetti. Ecco, allora, malgrado i nostri errori, ecco, dobbiamo tendere certamente ad essere i migliori genitori, ma possiamo tutti sbagliare. Ecco, un errore è quello che in qualche modo è sottolineato dal suo episodio. C'è questa possibilità che con tutte le buone intenzioni un papà e una mamma credono che il bene del bambino coincida in questa totale libertà, dobbiamo metterla tra virgolette, perché capiamo subito che è una libertà che poi può portare a far male al bambino stesso, che può disturbare gli altri, che può distruggere e così via. Ma dobbiamo pure questa parola. Il bene del bambino non coincide in un esercizio totalmente sbrigliato di questa libertà. Anzi, la sua crescita è legata progressivamente all'attenzione e al rispetto di alcune regole. Tra l'altro, le regole sono proprio in rapporto a quel senso del limite che abbiamo richiamato poi, prima. Senza il senso del limite non si cresce. Tanto che un altro studioso ha avuto la brillante idea di intitolare un suo saggio I no che fanno crescere. Ecco, non dobbiamo avere naturalmente paura di dire dei no. Sempre con molta misura, ecco, equilibrio ma il bambino, il fanciullo e anche l'adolescente a livelli diversi di maturazione, questo dobbiamo tenerlo presente, perché in alcune circostanze, mentre basta un no per il bambino di un anno, due anni, tre anni, beh, non basta un no per un tredicenne, un quattordicenne, un quindicenne e così via. In quel caso è necessario spiegare, comunicare. Ma torniamo alla scena del bambino. Ecco, tenere presente che dare regole è fondamentale. Proprio l'equilibrio psicofisico e spirituale di un bambino, e poi di un fanciullo, di un adolescente, di un giovane, è legato proprio al rispetto di regole, che poi coincidono nella consapevolezza che essi, nelle varie età evolutive, acquistano del limite che hanno anche i loro comportamenti. Quindi limite e regole per un equilibrio psicofisico armonioso. Un'altra dimensione, portiamoci ai figli già adolescenti. La televisione su questo ci dà degli spunti, abbiamo un paio di minuti, tre insomma, per chiudere, però un altro spunto: il ruolo. Spesso, e viene un po' anche forse dalla cultura americana che ci è arrivata appunto tramite mezzi di comunicazione, il genitore amico. È un'antitesi, sono due termini che possono andare insieme, non vanno insieme, qual è il suo pensiero? È un equivoco possibile quello di pensare al genitore amico. E non perché l'amicizia non sia un valore, anzi, sappiamo tutti, no? Che l'amicizia è un'espressione di amore, come ogni amore è un'espressione di amicizia. E però non è questo il ruolo di genitori. I genitori sono proprio coloro che guidano, sono l'autorevolezza, sono il valore, sono l'indicazione di una meta, per cui qui l'amicizia, nel senso almeno vero ordinario che diamo a questa parola, è un'altra cosa, è una relazione preziosa, anch'essa fondamentale nell'esperienza non solo giovanile, ma non è quella che qualifica la relazione tra genitori e figli. I figli sono chiamati a riconoscere la genitorialità proprio perché esprime anch'essa una meta, qualcosa che essi poi devono raggiungere, e per raggiungere questa meta è necessario indicare delle vie, dei percorsi, dare delle regole, cose che ovviamente non fa un amico nei confronti di un altro amico. Dei consigli, c'è un rapporto di confidenza, ma non un'indicazione di una strada, di una meta, di un valore. Invece il compito dei genitori è questa proprio autorità, intendendola proprio come tutto ciò che fa crescere. Non ha niente a che fare con l'autoritarismo, tantomeno con la violenza. È il riconoscimento che il bambino, il fanciullo, l'adolescente fa di alcune figure che sono fondamentali per la sua crescita, che non possono mostrare la flessibilità dell'amicizia, ma spesso devono rappresentare il rigore e appunto l'autorevolezza di una indicazione precisa, di una regola che deve essere seguita. Quindi credo, lasciamola pure alla letteratura americana, quella del genitore amico, e invece acquistiamo un poco per volta, perché anche qui i genitori non si è di punto in bianco, non si è per il semplice fatto della generazione fisica. Genitori si diventa, e si diventa nella misura in cui si diventa consapevoli della grande responsabilità che abbiamo nei confronti di una vita che sta nascendo e che sta salendo anche lungo l'età. E questo non è proprio dell'amicizia, ma è proprio della genitorialità, che poi coincide con un altro concetto molto importante, e con cui possiamo chiudere, della generatività. Tornando alla definizione da cui siamo partiti, ciò che caratterizza l'adulto, e ancor più quindi poi l'adulto, che diventa in ogni caso genitore, anche se non riproduce biologicamente, è genitore, nel senso che esercita una generatività. Ecco, ciò che caratterizza l'adultità è la generatività. Altrimenti siamo nella stagnazione. Il grande pericolo dell'adulto è la stagnazione, cioè il fissarsi in uno stato che non gli è permesso, perché l'adultità equivale alla virtù della generatività. Ed è generatività non solo della vita, ma è generatività di cultura, di modi di vita, di valori, di attenzioni, di rispetto. La cultura, quella che un'altra volta affronteremo col termine di cultura educativa, per esempio. E allora, proprio da questo ripartiamo fra 7 giorni. Grazie al professor Ermenegildo Guidolin per la sua presenza. Appuntamento alla settimana prossima. Grazie. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.